Giovedì 6 febbraio del 2014, 87.9, la modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere sottoscrivendo ad esempio sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma. Oppure basta consultare il sito della radio, il sito internet della radio, che è ondarossa.info. Sulla homepage c'è l'opzione sostieni per la modalità PayPal. Tra qualche istante cominceremo con i collegamenti per quanto riguarda Visionari, il cinema su questa emittente, il giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più, la scaletta della trasmissione di oggi la trovate sia sul sito della radio, alla voce trasmissioni Visionari, sia su Facebook, dove c'è appunto la pagina Visionari. Per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E sulla scaletta trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 6 febbraio, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, i film da tenere sott'occhio, e poi gli altri appuntamenti della settimana tra festival, rassegne e proiezioni. In più il link per riascoltare sia la puntata precedente che tutte quelle del 2014 fino a questo momento e il 2013. In collegamento con il centro sociale occupato Ricomincio dal Faro qui a Roma, intanto ben ritrovato Bruno. Ciao Federico, grazie per averci contattato, sei sempre diciamo splendido per le tue attenzioni che hai in generale per il cinema che si fa in periferia. Ci mancherebbe, insomma, Bruno. Senti, allora, mi interessava molto questa vostra iniziativa che è cominciata a dicembre e sta proseguendo. Perché? Perché proponete il giovedì delle proiezioni di film in lingua originale sottotitolato, il che, insomma, è abbastanza una rarità e fa godere ancora meglio il cinema. Sì, diciamo che questa scelta è nata da una riflessione che avevamo fatto insieme al gruppo che si sta occupando del cinema, sul fatto che comunque più delle volte non si conosce la voce dell'attore straniero che magari ci capita di vedere, ai classici De Niro o anche agli attori nuovi, diciamo, no? Cioè, magari tantissimi non conoscono la voce di Fassbender se non l'hanno visto in lingua originale. Sì. Che credo che sia penso che sia una cosa importante il fatto che all'interno di una rappresentazione come un film si possa sentire la possibilità dell'attore, senza nulla togliere comunque al lavoro dei doppiatori, che rimane comunque importante, perché sì, evidentemente il cinema italiano si è evoluto in un certo modo fin dall'inizio, quindi nonostante le battaglie che sono state fatte, insomma, sotto questo punto di vista, sì, negli anni 70. E poi in particolare il doppiaggio italiano, insomma, è tra i migliori al mondo, però questo non toglie che il film in lingua originale sia un'altra cosa, insomma. E mi piace anche il titolo della vostra rassegna, che è Voce Volto, ed è una sintesi perfetta delle vostre intenzioni, insomma. Sì, ma in realtà l'abbiamo un po' ripreso appunto da una battaglia che era proprio Gian Maria Volonté tra i promotori, perché all'epoca, nei primi anni 70, credo ancora, nei primi anni 70, sì, anche tantissimi attori italiani erano doppiati in italiano, quindi c'era un po' questa moto d'orgoglio degli attori, che soprattutto degli attori che pretendevano, insomma, di recitare in diretta senza essere doppiati. Sì. Senti, allora l'appuntamento è settimanale, dicevo avete cominciato a dicembre e adesso invece per quanto riguarda la programmazione, e voi la decidete di settimana in settimana. Intanto però possiamo dire che stasera c'è un film importante di Spielberg, sto parlando di Lincoln. Sì, film importante, perché comunque diciamo la scelta è caduta tantissimo sull'attore, proprio per il discorso che facevamo prima, sì, per l'interpretazione di Daniel Day-Lewis, e quindi possibilità di sentire quella voce e l'interpretazione di un personaggio storico famosissimo. Sì. Oh, tra l'altro, parlare un po' tu di Lincoln, se ti faceva piacere. No, l'ho visto, mi è piaciuto e anzi lo consiglio, e tra l'altro è stato uno dei film segnalati da, sai che noi all'inizio dell'anno facciamo il gioco delle cinquine, esatto, ed era uno dei, insomma, dei nominati, è stato proprio Lincoln di Spielberg. Tra l'altro aggiungo che Spielberg negli ultimi tempi non avevo trovato lavori suoi dell'importanza che hanno avuto altri precedenti, mentre con questo Lincoln è tornato alla grandiosità anche dei mezzi impiegati, ma anche delle tematiche e del respiro cinematografico che caratterizzava più opere sue precedenti rispetto alle ultime produzioni. Sì, sicuramente, vabbè, la scelta, ho detto, è partita anche dal fatto dell'attore, ma chiaramente anche del regista Spielberg, che tutti conosciamo, insomma, che con alti e bassi, chiaramente. Evidentemente, visto le cose che dici tu, lo penso anch'io, insomma, che è un grande film da vedere sicuramente. Tra l'altro tocca una delle tematiche che ha fatto la storia degli Stati Uniti, ossia lo schiavismo e la lotta allo schiavismo, insomma, è uno dei temi, sì, diciamo, centrali, anche con una certa tempistica, no? Diciamo, rispetto all'elezione di Obama, o comunque alle politiche, sì, o al fatto, comunque, alla sola immagine di Obama di un presidente nero negli Stati Uniti, non so, anche su questo Spielberg, no? Ha sempre, diciamo, cercato di cavalcare, almeno ultimamente, secondo me, l'onda, no? In sì, caso. Sì, sì, sì, sì. Senti, Bruno, come sono organizzate le serate? Dici gli orari e anche poi, soprattutto, un riferimento magari internet per la programmazione, per sapere di volta in volta gli appuntamenti. Sì, allora, le serate iniziano sempre alle 21:30, sala riscaldata, c'è la possibilità di usufruire la birreria di chi vuole, l'ingresso è completamente gratuito. Vabbè, per quanto riguarda la comunicazione, potete leggere, diciamo, i film della rassegna sul Facebook del Ricomincio dal Faro 2, oppure su Roma Attiva, che tutti i giovedì pubblica le cose che noi facciamo. Perfetto. Bruno, io ti abbraccio. Dimmi. Sì, volevo dire proprio velocemente, per giovedì prossimo che faremo un altro grande film, che sicuramente tu avevi visto, che si chiama Control di Anton Corbijn, sulla storia di Joy Division, e in particolare di Ian Curtis, un film da vedere che ha vinto diversi premi nel 2010 con una grande interpretazione di Sam Riley. No, credo che ne abbiamo avuto modo di parlare con la distribuzione di quel film, ma io invece l'ho perso, quindi magari può essere un'occasione per vederlo. Beh, te lo consiglio, in bianco e nero, la opera prima di Anton Corbijn come regista, che, come sai, viene dalla fotografia, un grandissimo fotografo del mondo del rock, che all'epoca seguì Joy Division, quindi, diciamo, anche nell'immaginario, nel suo immaginario, è riuscito, diciamo, a riprodurre benissimo sia la tematica del film, quindi il gruppo di Joy Division, che l'atmosfera. Bene. Lo consiglio ovviamente. Bene. Quindi anche giovedì prossimo, anche già Voce Volto. Ricordiamolo, la rassegna Voce Volto, centro sociale occupato Ricomincio dal Faro qui a Roma, film in lingua originale sottotitolati a partire dalle 21:30. T'abbraccio Bruno, a risentirci presto. Ciao, ciao, un abbraccio, ciao. Ciao, ciao. Ci spostiamo a sud, più precisamente Sud-Est, sempre in Italia, per parlare della 15ª edizione del Sud-Estival che sarà ed è in corso, anzi, a Monopoli, Polignano a Mare, Conversano. È cominciata il 31 gennaio, andrà avanti fino al 21 marzo. Ne parliamo con il direttore Michele Suma. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, raccontaci un po' quali sono le caratteristiche di questo festival, Michele. Ma questo festival è un festival tanto per iniziare in cui il pubblico è giuria, e quindi noi mettiamo in contatto diretto l'autore che è presente in sala, che è una condizione fondamentale del Sud-Estival, con il pubblico. E quindi abbiamo due spettacoli, uno alle 18, dove c'è anche la giuria dei giovani. Abbiamo selezionato 120 giovani delle scuole medie superiori che fanno da giuria e affidano, a loro è stato affidato il premio della Puglia Film Commission, premio d'autore che permetterà poi al film vincitore di avere un circuito nelle sale di qualità della Regione Puglia. E poi alle 21 c'è il pubblico che fa da giuria, ha una scheda con quattro giudizi, ne stacca uno, lo imbuca, e quindi poi alla fine c'è anche la settimana in Puglia offerta dallo sponsor che permette all'autore di tornare qui, visto che la Puglia poi in questo momento è anche una regione almeno ben organizzata sotto il profilo dell'accoglienza cinematografica e si presta bene per una sua vocazione di luce e di luoghi. Michele, volevo chiederti quante sono le opere tra lungometraggi e corti che avete selezionato per questa edizione? Noi abbiamo appunto selezionato 8 opere con 8 cortometraggi che fanno da diciamo da introduzione, perché la nostra missione culturale, se così la vogliamo definire, è sempre stata quella di rendere visibile quel cinema che molto spesso, il cinema italiano in particolare, il cinema d'autore, non ha l'adeguato spazio che meriterebbe, per cui il nostro interesse è quello di portare molte persone a cinema anche a costi decisamente molto bassi. 4 euro è un biglietto che è decisamente fuori portato, cioè fuori da quelli che sono i prezzi normali, e quindi abbiamo deciso di selezionare 8 opere con 8 cortometraggi che però non sono tutte compattate, perché abbiamo da sempre deciso che i nostri devono essere dei venerdì cinematografici dedicati al cinema italiano, per cui si inizia la mattina con delle lezioni al cinema, sui mestieri del cinema, tenute naturalmente da registi, sceneggiatori, direttori della fotografia, dedicate ai due licei grossi dei nostri luoghi, che sono il liceo di Monopoli e quello di Conversano, e poi si prosegue con le proiezioni sia dei lungometraggi che dei corti, per cui 8 venerdì a partire dal 31 gennaio per quanto riguarda il concorso. Quindi adesso siamo al secondo film, domani avremo i fratelli Manetti con il loro Song a Napoli, molte anteprime nazionali quali quella di domani, ha avuto un solo passaggio al vostro Festival di Roma, però non è ancora in circuito, quindi non è ancora in distribuzione, per cui appunto è un'anteprima nazionale soprattutto qui in Puglia, e poi avremo di seguito fino al 21 marzo, quindi è un inverno cinematografico così di appassionati del cinema, ma anche di molti curiosi del cinema, tra cui molti giovani. Certo. Michele, mi dicevi anteprime nazionali, ecco, quali sono stati i criteri di selezione dei titoli? Ma i criteri di selezione sono un po' legati anche ai generi, ma quest'anno, un po' curiosamente, sai, è capitato di avere a disposizione una sintesi dell'Italia, dei luoghi dell'Italia. Se pensiamo a domani o anche quello della scorsa settimana, due anteprime nazionali, Guido Lombardi con Tech Five e i Manetti Bros con Song a Napoli, abbiamo proprio Napoli. Ma poi abbiamo in particolare la Toscana della fine degli anni 50 col Seminarista, abbiamo l'esperienza di Novi Ligure, un'altra anteprima nazionale con Amore e Odio di Cristian Scardigno, avremo i Corpi Estranei, quindi Milano, Filippo Timi con questo film ambientato a Milano di Mirko Locatelli, quindi è un'altra anteprima nazionale, così come avremo il Nord-Est con una prima visione in Puglia, che è quella dedicata a Vittorio Moroni, che è anche un ritorno qui al Sud-Est con Se chiudo gli occhi non sono più qui. Devo dire che alcuni di questi autori, parlo di Daniele Gaglianone, dei Manetti Bros, e di Vittorio Moroni sono per noi anche dei gratificanti ritorni, cioè significa che al loro primo film, quando appunto nessuno li conosceva, noi abbiamo comunque dato molto spazio e abbiamo individuato in loro quello che poi sarebbe stato un regista con un futuro e anche una bella affermazione di critica di pubblico. Sì, il caso per esempio di Sorrentino, noi proiettammo nel 2001 L'Uomo in Più, ma nessuno conosceva Sorrentino e avemmo in sala in quel momento, perché non era disponibile lui, Andrea Renzi, che era il protagonista del film. Sì. Michele, ci dai gli estremi per quanto riguarda internet per la programmazione? Come no, noi oltre ad una pagina Facebook che è appunto Sudestival, che appunto è la forma sincopata di Sudest e di Festival, abbiamo il sito che è sudestival.org, dove ci sono tutte le notizie, i comunicati stampa, cioè tutto quello che può servire sia a voi giornalisti che al pubblico che è invece interessato a raggiungerci per vedersi un film in anteprima, o comunque un film che talvolta, come ti dicevo prima, potrebbe avere difficoltà a raggiungere gli schermi di alcune città, e quindi il Sudestival è qui per questo. Bene, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e un saluto a tutti, grazie. Ciao Michele. Ciao. Michele Suma, direttore della 15ª edizione del Sudestival Monopoli Polignano a Mare Conversano, è cominciato il 31 gennaio e proseguirà fino al 21 marzo. È con noi Sidney Sibilia, regista del film Smetto Quando Voglio, in uscita in sala oggi, giovedì 6 febbraio. Sidney, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, ciao, grazie. Buongiorno, buonasera, che si dice a questo? Buonasera, dopo il mezzogiorno. Sidney, senti, allora, per chi ci ascolta, raccontalo in breve questo lavoro. È un film intanto, stiamo parlando di un film che esce oggi al cinema e che parla di una banda di ricercatori universitari che vivono ai margini della società, nonostante siano le menti più intelligenti del paese, decidono di mettere su una banda criminale. E, insomma, è un soliti ignoti dei nostri tempi, sì. Così, tanto per fare paragoni alti. L'ha detto in due. Poi tutto il resto è spoiler. Andatevela a vedere perché è una commedia molto divertente. Senti Sidney, allora il tuo esordio nel lungometraggio di finzione, cosa hai fatto fino a questo momento? E guarda, è quello che fanno tutti quelli prima di fare il lungometraggio di finzione. Ho fatto i cortometraggi, qualche piccola pubblicità e tutto quello che c'era insomma da fare nell'audio video per pagare due bollette, insomma. Poi a questo punto mi hanno proposto di fare un film, ho detto sì ed è venuto fuori quello che spero andiate a vedere al cinema oggi. Certo. Senti Sidney, allora tu ti sei basato sulla cronaca e, sì. E leggevo anche di un'intervista qualche giorno fa che hai trovato dei casi talmente assurdi che sembravano incredibili, per cui hai deciso quelli di ometterli, però insomma si basa quasi tutto su storie reali. Sì, guarda, noi volevamo mettere su questa banda di ricercatori che poi in realtà nessuno di loro poi fa più effettivamente ricercatore, forse tranne uno che insomma è ancora lì precario all'università, tutti hanno abbandonato, perché sono tutti sui 40, hanno abbandonato la carriera universitaria e si è andati lì a cercarci varie storie. E poi c'erano quelle storie, ma proprio siamo andati proprio a intervistarli questi ricercatori che adesso fanno i lavori più assurdi e a volte quando venivano poi le interviste loro, le storie erano talmente surreali, e poi questo non è certo un film neorealista, quindi ti lascio immaginare quanto erano surreali queste storie, e a un certo punto alla fine loro dicevano ma la inserisci questa nel film? E io dovevo rispondere, pensa che cosa emotiva dirgli guarda no, la tua storia è troppo surreale, manco non ci crede nessuno. Ed erano invece storie vere, ma storie tipo di, la più divertente è quella di questo matematico puro, la matematica pura è quella branca della matematica che non ha un corrispettivo pratico, no? Una matematica fine a se stessa, cioè quindi un'intelligenza enorme di cui ti devi prendere cura. E lui faceva, è arrivato alla soglia dei 40, i genitori pensa gli fanno il discorso, gli dicono guarda, noi capiamo questa tua passione per la matematica, ma qualcosa di più concreto, e lui risponde geniale, mamma, a me mi piace fare il comico. Bravo, questa è una strada concreta, ma scusa, fai quello. E quindi questa, però non ci avrebbe creduto nessuno, quindi, però vi giuro, è vero. Senti, allora, il cast, molti volti noti per quanto riguarda la serie Boris. Sì, abbiamo preso Pietro Sermonti, Paolo Calabresi e Valerio Brea da Boris. In realtà è un caso, perché il cast dovevamo mettere su una banda, quindi un film che parla di banda deve essere una cosa bella da vedere, armoniosa, no? Quindi non ci si concentra sui singoli, ma ci si concentra su tutto il gruppo, e loro erano i più bravi in quel ruolo, quindi poi che i più bravi facessero anche Boris, insomma, è un po' un caso, anche se io sono grande fan della serie, quindi poi è ancora più bello. Beh, okay. Però è poi sempre difficile quando mi chiedono del cast, è sì, una cosa proprio semplice: i più bravi a fare, fai i provini, dici tu sei bravo, prendiamo te. Ma pensa te. Esatto, è una cosa assurda, anche, hai fatto di... sarà che è il primo film, io così pensavo ti facessi. Senti, comunque lo stile un po' lo richiama quello di Boris, quel surrealismo applicato proprio al reale. Sì, un po' è quello che mi faceva. Io volevo fare una cosa coerente, in realtà volevo fare più che facesse ridere me per primo, altrimenti se non ti diverti non trasmetti divertimento, no? Sì, cioè sì, ti ritrovi che poi fai delle cose incoerenti, e quindi abbiamo preso tutto quello che ci piace e l'abbiamo messo in quest'ora e mezza molto colorata. Senti, l'ambiente universitario, che poi rappresenta in piccolo la realtà italiana, una gerontocrazia, i baroni e le influenze politiche, ecco, che esperienza è quella che hai toccato anche con mano facendo queste ricerche in ambito universitario? In realtà volevo parlare di intelligenza, no? Perché c'è un certo tipo di intelligenza di cui bisogna per forza prendersi cura. È un film che parla di intelligenze molto settoriali, un latinista, non è che può fare altro se non il latinista, uno che per 30 anni, 20 anni ha studiato solo latino, quindi tocca che bisogna prendersene proprio cura. Se non te ne prendi cura, poi alla fine lui poverino non sa che fare. Infatti noi li troviamo che fanno i benzinai in una pompa di benzina gestita da un signore cingalese. L'università, io volevo raccontare in realtà anche una generazione, sì, che sono questa specie di quasi quarantenni, che sono un po' più grandi di me, che sono schiacciati dalla generazione, quella dei che adesso hanno 60-70 anni, i nuovi vecchietti, che sono gente molto grintosa in realtà, sono vecchietti molto, ma sono incazzatissimi e non mollano neanche per un secondo, e sono ben posizionati, perché sono una generazione analogica. Poi nel film è anche evidente una generazione invece successiva, i ragazzini, quelli di 20 anni, che sono la generazione digitale, che anche loro sono posizionati, e in mezzo c'è quest'altra generazione che poi è un po' la mia, un po' quelli più grandi, che fanno molta più fatica perché sono a cavallo, no? A cavallo tra i due momenti storici. Sì. L'altro tema forte è quello delle nuove droghe, le droghe chimiche, anche i colori accesi, acidi del film richiamano insomma un po' questo ambito dello sballo. E ecco lì, per esempio, anche lì credo che tu abbia fatto una ricerca rispetto alle sostanze che il ministero ritiene legali, e su quelle si può giocare per creare dei componenti nuovi in qualche modo. Sì, questa cosa non la sa quasi nessuno, ma in realtà c'è qui in Italia, perché una droga sia una droga, lo Stato deve mettere online, c'è un Excel sul sito del Ministero della Salute che ti dice quali sono le molecole in Italia illegali, che è una cosa paradossale, quindi vuol dire che se una molecola non è in quell'elenco, quella molecola è legale. E questa cosa, in realtà il film poi presenta, loro ne inventano una appunto legale, che noi ci siamo fatti far davvero da un chimico computazionale, ci siamo fatti creare una molecola, e la cosa interessante è che l'anno scorso, nel 2013, l'elenco è stato aggiornato di 240 nuove molecole, cioè si fa una fatica incredibile a star dietro a questa cosa, quindi noi ci abbiamo fatto un film, ma ci sono 240 persone che l'hanno fatto davvero. Sì. Quindi insomma perché è proprio una cosa tutta nostra europea. Sì, sì, sì. E quindi insomma loro riescono, cioè la cosa che mi interessava di questo aspetto è che loro sono talmente intelligenti che riescono a delinquere senza delinquere. quindi è un po' questa la cosa, non vanno, cioè non vanno contro il sistema, sono molto intelligenti e lo aggirano. Senti, l'ambito del, appunto, di queste nuove droghe è quello del divertimento, del tempo libero, dello sballo. Anche lì, che cosa hai, se hai scoperto qualcosa facendo questo lavorando a questo film, visto che insomma smuove, è un ambito che smuove grosse quantità di denaro e spesso fa danni anche ai cervelli. Ma guarda, in realtà no, non abbiamo fatto grosse ricerche, perché poi insomma che i ragazzi si facciano uso di, io poi in realtà io non ho mai fatto uso di nessuna di queste robe qua, proprio perché poi a Salerno proprio non ce n'è, quindi non volendo, diciamo, è una cosa, quindi insomma no. Poi anche il termine sballo poi è bellissimo, perché mi ricorda quando ero piccolo che c'era la pubblicità Il vero sballo e dire no, che è una la pubblicità a progresso, è la pubblicità a progresso, anche Smetto quando voglio, il titolo viene dalle pubblicità quelle degli anni 90, sì. Che era Smetto quando vuoi, era la frase proprio che diceva non pensare mai a smetto perché sarà troppo tardi, insomma è un che adesso, cioè loro in realtà non si fanno tanti scrupoli morali, perché quando non te li sono fatti con loro in qualche modo, anche se poi il film, vabbè, ora non voglio spoilerare nulla, certo. Però insomma loro vabbè, no, non voglio spoilerare proprio nulla, perché mi dispiace spoilerarle. Va bene, cosa, va bene. Senti Sidney, soddisfatto del risultato? Vabbè, che lo dico io in realtà sono sempre orgoglioso e insoddisfatto, però di carattere proprio, cioè, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto tu, ma cioè sono contento perché stamattina sono uscite delle recensioni bellissime, abbiamo aperto i giornali e sono uscite proprio delle cose che mi hanno messo quasi in imbarazzo, e io ringrazio proprio che è accolto benissimo, non ce l'aspettavamo. E ora spero che la gente lo vada a vedere, più che altro, così mi fate sapere se vi è piaciuto. Senti, in quante copie? Guarda, 250, 260. Bei numeri, eh. Bei numeri, insomma. Sì. Che ansia, sì. Proprio quello. Noi dobbiamo fare una cosa più piccola, ci siamo fatti prendere la mano come al solito. Noi riusciamo a fare sempre i soliti esagerati, è una cosa incredibile. Da quando sono piccolo, la storia della mia vita. Quindi, Sidney, no, speriamo bene, speriamo, andatelo a vedere, facciamo un appello. Detto quando voglio che vi divertite, no? Cioè, fa ridere. No, dillo tu, che se lo dico io sembro autoreferenziale. No, poi l'ho visto, insomma, è per questo che ti sto chiamando per parlarne, insomma, perché era divertente, e anche poi ritrovare tante facce conosciute dentro è stato un piacere in più. Senti Sidney, io ti abbraccio e ricordiamolo, grazie mille, grazie. Smetto quando voglio, in sala da oggi giovedì 6 febbraio, a risentirci presto. Grazie mille, quando vuoi io sto qua, il cellulare ce l'hai, chiamami quando ti pare. Va bene. Grazie mille, grazie, un abbraccio. Alla prossima, ciao Sidney. Ciao, grazie. Sidney Sibilia, regista del film Smetto quando voglio. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il giovedì dalle 14 alle 15. Ed è con noi Boris Maccario, regista del documentario Fermarci è impossibile, che sarà presentato qui a Roma in due iniziative. La prima l'8 febbraio, cioè sabato, al Casale Alba 2, e il 10 all'Università La Sapienza, e lunedì 10 all'ex Lucernaio. Boris, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, saluto a tutti e a tutte. Si parla di TAV, giusto? Allora, sì, questo video che abbiamo realizzato pochi mesi fa è stato presentato la prima volta a dicembre 2013 in Val di Susa, si intitola Fermarci impossibile, come sottotitolo La cronaca di una lotta popolare parte seconda, perché si riallaccia al video che abbiamo fatto qualche anno prima, che raccontava il movimento TAV dal 2005. Questo video, che verrà presentato anche a Roma nei prossimi giorni, è un video che è di fatto una cronaca degli avvenimenti che si sono succeduti negli anni che vanno dal 2010 al 2013. Se hai delle domande sono io davanti. No, ecco, visto che parli, hai parlato di due date precise, insomma, 3-4 anni di spazio temporale, e quali sono state le tappe decisive di questo percorso? Allora, le tappe decisive corrispondono bene o male alla suddivisione che abbiamo utilizzato nel montaggio del video, che è suddiviso in un prologo e tre parti. La prima parte è relativa al 2010, essenzialmente del cosiddetto tempo dei sondaggi, cioè l'anno in cui dopo un diverso tempo in cui insomma, le cose in valle non si capiva bene come sarebbero proseguite per quanto riguardava il TAB, improvvisamente nel 2010 arrivano con le trivelle, cercano iniziano a tentare di fare dei sondaggi, il movimento si oppone a questi sondaggi, ricomincia di nuovo tutta la storia, riprende la storia del movimento TAB. Poi dopo il periodo dei sondaggi del 2010 si arriva al momento diciamo più che ha fatto anche conoscere un po' in tutta Italia il movimento No TAV, che è il periodo della Libera Repubblica della Maddalena, quindi 2011, con lo sgombero della Libera Repubblica e poi la grande manifestazione nazionale del 3 luglio del 2011. L'ultima parte invece è relativa all'ultimo periodo, nel 2013 essenzialmente, un periodo in cui comunque come movimento notale abbiamo visto e stiamo vedendo e scontando sulla nostra pelle quello che è stato il cambio di registro utilizzato dalla controparte, che non soltanto criminalizza mezzo stampa, ma di fatto ha iniziato un'attività di repressiva molto forte. Quindi abbiamo chiamato questa ultima parte diritto alla resistenza. Oh Boris, anche per chi ci ascolta, anche se insomma da queste frequenze ne parliamo spesso e volentieri, quali sono le caratteristiche principali del progetto Treno ad Alta Velocità e quali i danni che denunciano gli oppositori a questo progetto? Sì, allora, la domanda. Sì, insomma, per grossa sintesi, ecco, insomma, per estrema sintesi. Certo, allora faccio solo una piccola premessa. Il video che abbiamo realizzato non affronta, non risponde alla domanda che tu adesso hai fatto. Perché noi questi motivi qua, insomma, li diamo un bel scontati, perché ci sono tante tante fonti disponibili per potersi informare e capire un po' quali sono gli elementi che hanno condotto una popolazione intera di una valle a opporsi ad un progetto, un'opera faraonica come il TAP. Essenzialmente il discorso è che si vuole scavare un tunnel che parte dalla Val di Susa e arriva in Francia per una linea ferroviaria ad alta velocità, quando questa cosa assolutamente non serve minimamente, perché questa linea che è stata inizialmente progettata come linea per il trasporto passeggeri, in realtà è linea trasporto, diventata linea per trasporto delle merci, non necessita di una nuova ferrovia. La ferrovia già esiste, basterebbe potenziarla e si potrebbe tranquillamente, come dice la controparte, rimanere in Europa, quindi mantenere i collegamenti commerciali con la Francia e tutta quanta l'Europa. Il costo di quest'opera è un costo spaventoso, adesso si parla di 24-28 miliardi di euro, cioè circa 50 mila miliardi delle vecchie lire, per fare una cosa che non serve assolutamente a nessuno. Oltretutto c'è tutta una serie di ricadute negative sulla Val di Susa, che si vedrebbe in caso in cui quest'opera dovesse partire, avrebbe come minimo 25-30 anni di cori in corso, con una ricaduta dal punto di vista della salute anche qua è veramente gravissima. Sì. Parliamo di uranio nelle montagne che andrebbero scavate, di amianto, di tante cose che comunque renderebbero impossibile vivere in Val di Susa. Boris, rispetto al documentario, come lo avete strutturato? Ci sono interviste, c'è la cronaca delle mobilitazioni, il quotidiano, come lo avete strutturato? Allora, questa volta rispetto all'altro non siamo partiti dalle interviste, ma abbiamo fatto praticamente un montaggio in ordine cronologico di tutta una serie di eventi, iniziative che si sono svolte in Val di Susa dal 2010 al 2013. Quindi essenzialmente si vedono immagini di manifestazioni, presidi, interventi, momenti anche ovviamente di tensione, di scontro con la polizia, eccetera. Abbiamo realizzato tre brevi interviste che, diciamo così, fanno un po' da collante alle tre parti, però fondamentalmente quello che si vede sono immagini di lotte di movimento, senza un voce off, senza sottolineature particolari, a parte queste interviste di cui dicevo prima. Aggiungo che buona parte del materiale che abbiamo utilizzato è stato girato da noi. Alcune parti sono immagini che ci hanno donato, diciamo così, altri militanti di Natale che avevano fatto delle loro riprese, e ancora un'altra parte è composta da video direttamente scaricati dalla rete. Alla fine del film ci sono anche elencati tutti i canali dai quali si può accedere ai video che qualcuno magari riconoscerà avere girato a suo tempo. Senti, diamo dei riferimenti in rete per chi volesse saperne di più e anche contattarvi e organizzare proiezioni? Guarda, per organizzare le proiezioni basta scrivere una mail contattando il sito notao.info oppure infoout.org. Basta andare nelle pagine, nelle home page di questi due siti e cliccare su contatti e mandare la mail con la richiesta. E lì ci sono anche informazioni sul lavoro, insomma. Sì, anche quello, sì. Benissimo. Boris, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, io ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, ok? A presto. Ciao, grazie. Boris Maccario, regista del documentario Fermarci è impossibile, sul movimento Notav, che sarà qui a Roma in due date, sabato 8 febbraio al Casale Alba 2 e il lunedì 10 febbraio all'ex Lucernaio all'Università La Sapienza. In collegamento con Marco Casciani, co-regista del documentario Ponte Galera, che sarà presentato oggi al Metropolis qui a Roma lungo la via Prenestina. Marco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, un saluto a tutti. Allora, cercando informazioni in rete sul documentario, ho visto che è un po' già girato, è stato anche presentato al Centro Sociale La Strada, se non sbaglio a dicembre. Sì. Raccontaci un po' di questo lavoro. Sì, guarda, allora, noi, io e il mio amico, diciamo, videomaker, ci siamo iniziati a interessare all'argomento CIE e in particolare a Ponte Galeria, dopo che c'è stata quella campagna Lasciateci Entrare, fatta da un gruppo di giornalisti nel 2012, sì, in cui praticamente loro volevano riacquisire i diritti per rientrare all'interno dei CIE, visto che all'epoca Maroni aveva fatto una circolare in cui diceva, insomma, vietava l'ingresso alla stampa nei CIE. Diciamo che grazie a loro poi sono riusciti a riacquisire i diritti e quindi anche per noi è stato facile fare richiesta e documentare, diciamo, anche proprio all'interno del centro. Oh, quanto siete riusciti a stare? Quanto sono durati i lavori di ripresa? Allora, noi li abbiamo iniziati nell'estate del 2012 e poi abbiamo concluso proprio definitivamente il documentario un anno dopo. Diciamo, è stata un po' lunga la cosa, però le riprese e le varie interviste le abbiamo fatte tutte nel periodo diciamo in cui siamo riusciti ad entrare nel centro, che era appunto agosto del 2012. Ecco, dicevi di riprese e interviste, a questo punto ti chiedo come avete costruito il documentario. Sì, allora diciamo si alternano le interviste alla nostra visita al centro. Sì. Noi abbiamo intervistato principalmente appunto questi i giornalisti di Lasciateci Entrare, e abbiamo cercato anche di trovare, insomma, di fare interviste anche a diciamo a gente comune che non insomma, che poi abbiamo scoperto era anche a favore di questi centri, in modo da cercare di far vedere entrambi i modi di pensare, insomma, della gente. E niente, poi abbiamo fatto le riprese nel centro, e dentro proprio abbiamo siamo riusciti a intervistare anche gli operatori dell'Auxilium e gli stessi detenuti, insomma, quindi diciamo ci sono vari punti di vista che emergono dal documentario. Ecco, due aspetti in particolare mi sembrano interessanti: quello di chi ci lavora e quello di chi lo subisce, dei detenuti. Ecco, che quadro ne emerge da queste interviste? Allora, beh, ovviamente diciamo chi ci lavora, quando noi siamo entrati, diciamo, c'è stata una diciamo chi lavorava all'interno era preparato a questo incontro, quindi c'era proprio un percorso da seguire, in cui noi eravamo seguiti e ci descrivevano le varie parti del centro, e abbiamo parlato ad esempio con il medico dell'Auxilium finché, insomma, diciamo siamo giunti poi nel luogo in cui c'erano anche i vari ospiti, insomma i vari detenuti, e quello che dicono loro, diciamo che emerge da loro, è che non ce l'hanno tanto con chi lavora dentro, ma proprio con il sistema in generale. Cioè il fatto che loro devono stare rinchiusi là dentro senza sapere esattamente quando usciranno, e soprattutto il motivo della loro detenzione, perché alla fine si tratta di qualcosa di amministrativo e non penale, quindi diciamo è paradossale il fatto che sia una detenzione quasi come quella di un carcere, quando invece alla fine diciamo un reato penale non è stato commesso, ecco. No, poi è curioso il fatto che vengano definiti ospiti quando è forzata questa. Esatto, infatti il termine che viene sempre usato è ospiti, però fa strano usarlo poi quando si vede, sì, si vede in realtà la realtà com'è, insomma. Senti, rispetto, ecco, alla loro provenienza, alle loro aspettative, ai loro desideri rispetto alla loro meta di viaggio e anche di vita, cosa avete sentito di queste storie? Beh, diciamo che alcuni cioè principalmente non magari non volevano neanche rimanere in Italia, cioè questo sì, diciamo il motivo principale, nel senso che è qui che arrivano per forza di cose, però magari non tutti avevano questo obiettivo, magari volevano andare a trovare i parenti o in Francia o insomma a seconda della loro provenienza. Sì. E quindi diciamo che si ritrovano incastrati in una situazione un po' strana, perché comunque diciamo il discorso è la questione è europea, non è solo italiana, quindi poi qua si aprirebbe un discorso molto più ampio, però diciamo che noi abbiamo questo problema proprio a livello geografico, però in realtà dovrebbe occuparsene l'Europa intera, insomma, è questo il fatto. E proprio a proposito di Europa, si tratta del più grosso centro di questo d'Italia, tipo di identificazione e espulsione a livello europeo, giusto? Sì, esatto, sì, sono sì, quello di Roma è quello più grande, e però diciamo anche lì, se si parla di numeri, anche lì è abbastanza paradossale, perché in tutto diciamo i CIE non riescono, cioè se l'obiettivo sia è quello di cercare di risolvere il problema dell'immigrazione irregolare, i CIE non sono proprio a livello pratico funzionali in questo, perché contengono una minima parte degli immigrati irregolari sul territorio italiano, quindi al di là delle ideologie c'è anche questo fattore molto pratico che potrebbe andare, insomma, potrebbe interessare la politica al di là della sinistra o della destra, insomma, è proprio una questione pratica. Mm-hmm. Quindi c'è anche questo. Senti, tornando all'assurdo semantico del termine ospiti, ecco, come sono le condizioni di vita all'interno? Ah, diciamo, nel documentario, ad esempio, si sente, cioè molti parlano di alcune privazioni che hanno, come ad esempio, diciamo, oggetti che potrebbero essere usati da loro per cercare di uscire, insomma, di farsi ricoverare e poi uscire, come ad esempio penne, fermagli o ad esempio specchi, non hanno gli specchi, quindi diciamo c'è tutta questa questo discorso anche sul fatto che si lamentano non tanto della della pulizia, almeno questo nel CIE di Ponte Galeria, e non tanto della pulizia ma del fatto che gli vengono tolte delle cose che dal punto di vista loro diciamo sono potrebbero essere essenziali, insomma normali da avere, mentre invece da un punto di vista degli operatori lievita per, a loro lievita diciamo il fatto che loro potrebbero diciamo fare in modo di farsi ricoverare per poi alla fine in qualche modo uscire, quindi questo è il problema diciamo che emerge principalmente. Sì. Senti, dal punto di vista invece legale e strutturale ci sono avvocati che li seguono in maniera coordinata, ci sono strutture che invece per quanto riguarda la logistica danno una mano in qualche modo? Sì, guarda, noi per quanto riguarda noi, quando abbiamo fatto le interviste abbiamo parlato con un avvocato, Serena Lauri, che si è insomma lavora molto con gli immigrati, in particolare a Ponte Galeria. Lei si occupa proprio diciamo di questo aspetto, cioè del fatto che di dare un'assistenza da un punto di vista legale proprio. Sì. E infatti il discorso con lei è stato molto interessante perché ci ha parlato anche di alcune dinamiche proprio da un punto di vista giuridico, di cui noi magari quando abbiamo girato non eravamo proprio così informati, quindi sì. È molto difficile, diciamo, ci sono un sacco di cavilli e quindi è importante che ci siano degli avvocati insomma che si interessino insomma e diano una mano. Sì. E associazioni invece per quanto riguarda proprio l'aiuto materiale a queste persone? Ma diciamo noi quando abbiamo parlato con questo gruppo diciamo di giornalisti e di gente diciamo ci siamo rapportati principalmente con loro. Loro ovviamente fanno tutto diciamo essendo giornalisti diciamo la loro motivazione inizialmente era quella appunto di, come dicevo all'inizio, di riconquistare quel diritto. Poi la campagna però non è finita, è andata avanti, quindi diciamo poi alla fine si occupano in generale della questione, dando anche una mano proprio a vari ospiti detenuti insomma che riescono a contattare, perché comunque riescono ad entrare costantemente anche magari con delegazioni del Parlamento. Sono continuamente diciamo attivi in questo senso. Sì. Senti Marco, in chiusura diamo riferimenti per chi vuole saperne di più sul vostro documentario in rete, dove si può cercare? Allora, in rete noi lo dobbiamo mettere, finora c'è solo un trailer, stasera chi riesce a venire al Metropolis alle 10 c'è la proiezione. Alle 22, ok. Esatto, e comunque a breve faremo pagina Facebook, caricheremo su YouTube, perché comunque l'idea è quella di renderlo disponibile online. Perfetto. E quindi alla voce Ponte Galera, che è il titolo del documentario, poi sul web si troverà tutto. Bene, diamo anche le coordinate del Metropolis, via Prenestina, il numero civico però non lo ricordo, tu ce l'hai? No, in questo momento non ce l'ho. Però si trova facilmente da qualche parte online sì. i riferimenti per quanto riguarda il Metropolis. Marco, io ti abbraccio, a risentirci presto. Ti ringrazio, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Marco Casciani, co-regista del documentario Ponte Galera. Giada Evandri, ci sei? Sì. Oh, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa per parlare del bando del progetto Are You Serious, con il no profit come non l'avete mai visto. Allora, intanto benvenuta Giada. Grazie. E poi raccontaci un po' di questo progetto. Sì, allora, questo è un progetto molto ambizioso perché parte da una riflessione che Milano Film Festival ha fatto in tanti anni di attività sul fatto che il no profit sia un tema molto spesso trattato nel cinema e in generale nella comunicazione in modo forse poco contemporaneo o comunque parziale, e quindi vorremmo avvicinare tutti i creativi, tutti i filmmaker a questa tematica che è ancora un po' oscura per molti, e lo scopo del progetto è quello poi di arrivare a produrre una web serie, per cui un prodotto virale, giovane, molto divertente possibilmente, che riesca in realtà poi a comunicare una storia di no profit al pubblico più generalista possibile. Quello che vogliamo appunto è che sia una comunicazione che per una volta non arrivi ai soliti addetti ai lavori o alle persone già molto sensibilizzate, ma proprio a quelle persone che hanno un'immagine molto confusa di che cosa sia il no profit oggi in Italia. Senti, poi cosa succederà una volta che arriveranno questi materiali? Sì, allora il bando innanzitutto scade il 10 marzo, sì. E tra appunto i vari materiali che chiediamo per partecipare c'è anche una sorta di puntata pilota, sostanzialmente al termine del bando noi raccoglieremo tutte le puntate pilota, faremo una selezione e creeremo una piattaforma web per dare visibilità a tutti i materiali arrivati, tra quelli coerenti ovviamente e meritevoli, in modo anche da ripagare questo sforzo produttivo che abbiamo chiesto per poter partecipare al bando. Quindi ci sarà innanzitutto questo momento di visibilità e speriamo anche di occasione di sviluppo di nuovi progetti. E dopodiché in aprile invece verrà proclamato un vincitore che avrà la possibilità di produrre l'intera serie, quindi 10 episodi, con un budget di 60.000 euro e quindi successivamente andrà in produzione la serie. I primi 2 episodi della serie vincitrice verranno presentati al Milano Film Festival a settembre. Senti Giada, rispetto a questo grosso universo del no profit, come avete deciso di orientarvi? Esatto, allora, il no profit è uno spaccato di mondo in realtà, perché all'interno volutamente non abbiamo diviso in categorie, per cui si potranno raccontare storie che andranno dal sociale all'ambito culturale, all'ambientalismo, all'attivismo, insomma gli ambiti sono veramente ricchi. Quello che ci preme è raccontare storie che mettano in luce appunto che cosa vuol dire oggi lavorare in un'organizzazione no profit in qualche modo, per cui sicuramente si parlerà della causa che poi spesso è l'oggetto della comunicazione tradizionale che riguarda questo tipo di organizzazioni, ma vorremmo anche mettere un focus sulle persone che lavorano in questo tipo di organizzazioni, perché ne conosciamo tante e sappiamo che sono persone giovani, molto appassionate, che fanno anche dei lavori molto interessanti, a volte anche molto avventurosi, negli angoli più remoti del mondo, e quindi crediamo che sia materiale non per una serie ma per tantissime serie, e quindi aspettiamo di avere delle storie veramente appassionanti da questo punto di vista. Senti, per le serie già avete più o meno delle idee su come saranno materialmente? Ma allora in realtà il bando è aperto a qualsiasi genere, per cui ci aspettiamo sicuramente qualche opera più di stampo documentaristico che magari si ispira volutamente, che racconta appunto la realtà di organizzazioni esistenti, ma possono anche arrivare fiction, sitcom, quindi anche degli spezzoni un po' più divertenti, anche progetti di animazione o, essendo anche un prodotto pensato per il web, potrebbero anche arrivare progetti che hanno a che fare anche con l'interattività, per esempio. Vorremmo veramente lasciare massima libertà di linguaggio e cercare idee nuove, questo è lo scopo. Ma questo anche per quanto riguarda la durata di una singola puntata e la durata in generale delle puntate? No, allora, sulla durata abbiamo chiesto di tararsi su un minutaggio massimo di 10 minuti, in modo che effettivamente possano avere un certo ritmo e possano essere anche godibili poi per il pubblico finale, perché poi il vero giudice sarà il pubblico finale che vedrà la serie e dovrà appunto goderne. Quindi, essendo un progetto nato per il web, abbiamo pensato di lasciare ogni episodio la durata massima di 10 minuti. E per quanto non c'è invece un minimo? Volevo chiederti invece per quanto riguarda la durata delle puntate in generale, lì invece non c'è un limite? No, nel senso appunto abbiamo un po' dato questa indicazione di stare intorno ai 10 minuti massimo, però in realtà potrebbero essere anche più brevi. No, non sulla durata di una puntata singola, ma sul numero delle puntate. Ah, scusami, sugli episodi, perdonami. 10 episodi. 10 episodi, benissimo. Senti, e poi quali saranno i canali di fruibilità? Allora, il web innanzitutto, per cui poi appunto ci faremo carico di una promozione, di una pubblicazione online, oltre appunto ovviamente all'inizio alla presentazione in anteprima al festival, Milano Film Festival in settembre. Sì. E poi ovviamente stiamo ancora lavorando, perché in realtà è un mondo, come dicevo prima, molto ampio, per cui potrebbero nascere poi future possibilità anche nuove, insomma, per questo, diciamo che è un mondo anche in profonda trasformazione, per cui siamo aperti anche a sondare nuove forme, però in primis ci sarà sicuramente una pubblicazione web. Bene, ci lasci i riferimenti? Certo, il sito è arioseries.com, lì trovate il regolamento e anche un'email che è info@arioseries.com per chiedere qualsiasi tipo di domanda, c'è uno staff che risponde velocemente a qualunque dubbio. Benissimo. Giada, io ti ringrazio, a risentirci presto. Grazie a voi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao ciao. Giada Evandri sul bando del progetto Are You Serious, il no profit come non l'avete mai visto. Ben ritrovato Mario Sesti, ci sei? Salve, come state? Bene, tu? Abbastanza bene, grazie. Allora, quest'oggi per parlare di cinema al Maxi, si è cominciato ieri, se non sbaglio, 5 febbraio. Si è cominciato ieri e la saletta era strapiena e credo che gente come me, come te, quando vede le sale piene è molto felice, si alza meglio la mattina e prova una sensazione di vaga ma concreta felicità. E quindi ieri c'è il film dei fratelli Coen, che è un film bello, anche se quando ho scritto in America il loro dark mood iniziato dopo Non è un paese per vecchi sembra ulteriormente dilatarsi e approfondirsi. E sabato abbiamo due film che parlano della cosa più bella che c'è al mondo, il desiderio delle donne, e quindi Monica e il desiderio di Bergman, un film scandaloso degli anni 50 che presenteremo credo per la prima volta almeno a Roma in una versione completa dove fu falsificato la censura, e alle 21 udite udite Diavolo in corpo con il suo autore Marco Bellocchio, e ci saranno insieme a me anche Maurizio Sciarra dei 100 autori e Giona Nazzaro, che è un critico che lavora anche col Festival di Roma, che ha curato un'edizione americana filologica, diciamo così, in DVD di Diavolo in corpo. Sì. In mezzo tra le 18 e le 21 c'è anche la possibilità di fare un aperitivo scontato lì al bar del Maxi per chi esibirà il biglietto del cinema. Ho due mesi di programmazione fino al 5 aprile. Ci sono delle giornate fisse durante la settimana, e poi quali sono, anche se ci sono, delle sezioni di questo cinema al Maxi? Beh, ci sono tre spazi di programmazione. Il sì. successo della prima edizione, di cui avete parlato anche voi, che si è svolto per l'appunto quest'autunno, ha fatto sì che sia il Festival del Cinema di Roma sia il Maxi, che sono le due istituzioni che hanno progettato e promosso e organizzato questa iniziativa, hanno deciso di rilanciare. Quindi mercoledì c'è un'anteprima, che significa che tutti i film in lingua inglese, ma anche quelli francesi, saranno visti in lingua originale il giorno prima che escono in sala. Sì. E qui abbiamo titoli di cui sono molto particolarmente orgoglioso e felice, tipo 12 anni schiavo, tipo Super Gondriac, tipo Grand Hotel Budapest, insomma sono tutti titoli che per i palati fini, ma anche per coloro che hanno una passione per il cinema, come per il rock, come per i libri, sicuramente avranno già intercettato. Il sabato, un po' come ho cercato di spiegare, facciamo questa cosa che credo sarebbe per esempio piaciuta molto a un uomo come Niccolini, che l'ha un po' inventato durante gli anni dell'estate romana, no? Cioè sì. L'idea di giocare con i film, di metterli insieme, con l'idea che i film quando sono grandi sono anche capaci di parlarsi tra di loro. E quindi per l'appunto Bergman Bellocchio il prossimo sabato, ma abbiamo anche film come La caduta degli dei Visconti e Il portiere di notte della Cavani, che sarà anche lei in sala, che presenta stati nella stessa giornata, oppure non so, Vogliamo i colonnelli di Monicelli e i primi della lista di Rowan Johnson, che sono tutti e due film che parlano della paura del golpe degli anni 70, sono uno fatto appunto negli anni 70 e uno di qualche anno fa. Oppure per esempio ci sarà una giornata tutta Truffaut, quest'anno sono i 30 anni della scomparsa del regista dei 400 colpi, e io personalmente ho scelto due film piuttosto dolorosi che amo molto di questo regista, che sono La calda amante e La donna della porta accanto. Insomma, io credo che questa sia una proposta che non esisteva prima, e quindi una città come Roma, che ha un'eredità culturale enorme anche nel campo del cinema, credo che Roma si meritasse una cosa del genere, soprattutto i romani. Sì. Dicevi delle anteprime in lingua originale, e ti chiedo anche se questo riguarderà ad esempio i documentari. Naturalmente ci sono, ecco, i documentari che qui tengo molto, perché sono dei documentari italiani, e sono tutti e tre anche questi in anteprima il giorno prima di uscire in sala, che sono Felice che è diverso di Amelio, che sarà presentato adesso al Festival di Berlino, lo presentiamo subito dopo, poco prima, il giorno prima che esca in sala. Wolf di Claudio Giovannesi, che è stato al Festival di Torino, e come ricordi Claudio Giovannesi è un autore che si è formato, diciamo così, al Festival del Cinema di Roma, nel senso che le sue prime opere le abbiamo scovate e selezionate noi. E poi c'è questo Bruno e Gina, che è un'operetta veramente curiosa, perché ricostruisce alcuni angoli inediti di quello che Woody Allen chiamerebbe il dittatore fascista più famoso del mondo, cioè Mussolini, perché c'è la moglie del figlio che morì in un altro incidente aereo, un carteggio che supera degli angoli edite, anche delle posizioni critiche nei confronti del regime all'interno della stessa famiglia di Mussolini. Credo che questa per esempio sia una piccola grande scoperta, e viene presentato un sabato in cui alle 18 facciamo Mussolini ultimo atto di Lizzani, che è anche un omaggio a un grande regista italiano che, come sai, è scomparso qualche mese fa. Hai previsto anche l'incontro con gli ospiti in generale? In generale, laddove ci sarà la possibilità, cercheremo di farlo. Naturalmente non sempre questo è possibile, perché come sai i talent stranieri non sempre seguono i loro film in tutti i paesi, però ogni sabato, grazie ai 100 autori, ci sarà un regista che dialogherà con me e eventualmente anche con l'autore del film, se è disponibile, se è vivente, eccetera. E quindi io credo che soprattutto il sabato sia un po' la punta avanzata, diciamo così, della colorazione cinefica di questo programma, ed è naturalmente l'appuntamento che mi incuriosisce di più, perché significa davvero invitare molte persone a vedere delle cose che poi, se non hai una certa età, non hai mai visto, perché, come sai meglio di me, i film non vanno più in onda in TV, non solo i classici, ma quasi i film in generale. I cineclub non esistono più, la scuola dell'obbligo in Italia non ritiene che il cinema faccia parte del suo curriculum, quindi è una chance concreta di poter vedere sul grande schermo dei titoli che hanno fatto il cinema, e non soltanto il cinema italiano. Hai parlato dei 100 autori, ci saranno anche altre associazioni cinematografiche che collaboreranno con voi? No, noi ci siamo rivolti ai 100 autori perché ci sembra giusto che, appunto, il percorso è molto autoriale, quindi sì, molto classico anche in questo senso, no? L'idea, soprattutto come diceva Truffaut, che non ci siano opere ma solo autori. E quindi ci è sembrato che l'interlocutore ideale fosse proprio i 100 autori, che sono, come sai, l'associazione che negli ultimi tempi sì, ha dimostrato maggiore personalità, intraprendenza e anche attivismo da questo punto di vista. Però tutta la parte, diciamo, della library dei classici ci è stata messa a disposizione dall'Istituto Luce, che è a tutti gli effetti un po' il main partner di questa vicenda, e che ci ha messo a disposizione per l'appunto tutta una serie di titoli che ci ha consentito di costruire, diciamo, la qualità di questo programma. Oltre al fatto che però ci sono altre, per appunto, come dicevo, siamo stati molto contenti di vedere che il successo della prima iniziativa ci ha predisposto anche una buona attitudine nei confronti di storiche distribuzioni di cinema di qualità come la BIM, come la Lucky Red, ma anche la Fox per esempio, no? E soprattutto la Raro Video Minerva. C'è una giornata interamente dedicata a loro, come sai, una piccola distribuzione ma molto efficace, che cura soprattutto del cinema veramente di grande sperimentazione. C'è una giornata in cui ci sta Eraserhead di Lynch e un sabato in cui ci sta Eraserhead e Il Topo, che sono due film di mezzanotte. Hanno dimostrato la vitalità della sperimentazione anche un po' folle, anche un po' fuori di testa del linguaggio delle immagini e dei suoni, e hanno affermato due grandi registi visionari come David Lynch e Jodorowsky. Oh Mario, vi siete dati, per quanto riguarda i criteri di scelta dei titoli, un timone? Ma in realtà, per l'appunto, come visto, il timone è stato un po', se devo dire, un po' narcisisticamente il mio divertimento di giocare mettendo dei film insieme, no? Sì, sì. Come visto, a volte c'è un'affinità, per esempio appunto La scienza del nazismo o La memoria del nazismo, appunto nei film di Visconti e della Cavani. A volte invece, insomma, l'ultimo sabato ho contrapposto due titoli più che due autori. Uno è René, con un film che si chiama Parole, parole, parole, dove tutti i personaggi si confessano raccontandosi attraverso una canzonetta, e poi Segreti, segreti di Giuseppe Bertolucci, anche qui un omaggio a un regista scomparso di recente, in cui invece tutti i personaggi sono, come dire, determinati da una tendenza alla rimozione, alla clandestinità, alla non chiarezza anche con se stessi dei propri pensieri. C'è una giornata che amo moltissimo, ci sono due autori completamente diversi, a parte con epoche straordinariamente lontane, come Marco Ferreri e Amos Gitai, ma sono tutti e due film sulla sottomissione femminile, vista da una parte come un mito o un'apologia, cioè La Cagna, di Ferreri, e dall'altra come una piaga sociale in Kadosh, un film straordinario in cui si descrive la difficoltà di essere donne presso comunità di ebrei ortodossi in Israele. Quindi, diciamo, il timone è stato anche un po' l'irresponsabilità dell'immaginazione. Sì, ma sì, io sì, credo sì. Che insomma, per chi ama il cinema, essere liberi nell'immaginazione sia più un dovere che un piacere, insomma. Senti, i riferimenti per Cinema al Maxi, il sito internet qual è? Beh, il Festival del Cinema di Roma e quello del Maxi, entrambi hanno un programma. Se poi si vogliono comprare i biglietti in anteprima, si può andare direttamente sul sito del Maxi, dove è possibile acquistare biglietti con molto anticipo. E credo che appunto in alcuni casi consiglieranno, perché ieri appunto nonostante la pioggia, nonostante la partita, nonostante Roma il suo traffico, però alcune persone non sono riuscite a entrare. Non moltissime, però la setta non è grandissima, c'è poco più di 200 posti, quindi per avere la certezza consiglio di comprare i biglietti con una certa, un certo preavviso, diciamo. Bene. Mario, io ti abbraccio, ci sentiamo presto. Grazie, grazie dell'attenzione come al solito. Ciao ciao, a presto. Mario Sesti, curatore di Cinema al Maxi, cominciato ieri dal 5 febbraio, andrà avanti per due mesi fino al 5 aprile. Niente da fare per quanto riguarda l'uscita in sala del film restaurato La febbre dell'oro di Charles Chaplin. Dobbiamo sentire Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, che appunto ha curato questo restauro. E a questo punto però magari ne parliamo la prossima settimana, il prossimo giovedì dalle 14 alle 15 lo spazio di Visionari. Per quanto riguarda i riferimenti, c'è la pagina sul sito internet della radio ondarossa.info alla voce trasmissioni Visionari, c'è la pagina Facebook sempre di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E a questo punto ci salutiamo, a giovedì prossimo. Grazie.